Ma di fatto dipende, cioè se diciamo che la robotizzazione e tutta la tecnologia rimane appannaggio della proprietà privata dell'attuale, no? Assetto capitalista, sicuramente i lavoratori non soltanto saranno sostituiti, ma rimarranno, diciamo, forse con qualche briciola elargita appunto dal capitale per una mera, diciamo, esigenza di sussistenza, di riproduzione e consumo. Dall'altro invece c'è appunto la via di mezzo, che è la cosa per cui invece la tecnologia, sebbene può liberare, anzi dovrebbe liberare appunto i lavoratori dal lavoro, ma anche dalla fatica del lavoro, ok? Perché poi diciamo c'è sempre una via di mezzo, bisogna capire di cosa stiamo parlando. Questo può avvenire effettivamente se innanzitutto i lavoratori sono in grado di, da un lato, controllare le tecnologie, dall'altro prendere anche decisioni in seno a quali investimenti tecnologici o meno apportare in seno appunto alle aziende, eccetera, cosa che al momento effettivamente è abbastanza lontano, ovvero la tecnologia più che automazione dei processi in sé per la liberazione appunto dell'uomo dal lavoro viene introdotta da un lato, come abbiamo visto, già discusso, per il controllo, se vogliamo, diciamo, più ferreo, più efficientista, terrorista, chiamiamolo come vogliamo, dei lavoratori, e dall'altro in realtà in modo sempre più produttivista. Uno degli esempi classici, appunto, le fabbriche metalmeccaniche introducono l'esoscheletro, quindi diciamo questa imbragatura tecnologica per gli operai, l'esoscheletro non viene introdotto per lavorare meglio e meno, ma viene introdotto per lavorare di più. Certo, ma la prospettiva di un mondo come lo abbiamo visto in certi film fantascientifici c'è, o come dire, è ancora fantasia? Ma è ancora fantasia, perché in realtà pezzi di ciclo produttivo non hanno raggiunto, diciamo, livelli di automazione tali da poter eliminare i lavoratori. Ricordiamoci anche che la tecnologia costa, quindi questi grandi investimenti per sostituire appunto il lavoro devono essere fatti da qualcuno. Siamo in un periodo storico in cui le aziende non reinvestono, anzi investono pochissimo dei loro utili e profitti in macchinari tecnologici. Perché? Perché appunto, data la svalutazione del lavoro in termini anche, no, di costo, conviene per molti settori mantenere, diciamo, lo sfruttamento intensivo di manodopera piuttosto che quello delle macchine. Poi c'è tutto, perché appunto su questa cosa ancora, diciamo, non abbiamo anche un livello di consapevolezza, di conoscenza accurata per poter dire quali sono oggi, perché no, ci sono degli studi con delle stime, ma ognuno di questi ha dei bug abbastanza rilevanti, quindi capire anche quali sono i settori che saranno, diciamo, più velocemente toccati e intaccati e quali meno. Cioè, certo. Ecco, tu prima dicevi comunque perché sia la robotizzazione sia un'opportunità e non un rischio, sostanzialmente la parola devono prenderla i lavoratori. E ci sono, come dire, strumenti per farlo allo stato attuale? Si possono costruire? Come? Ma al momento attuale ce ne sono sempre meno, perché appunto la democrazia diciamo economica interna alle aziende è stata quasi, diciamo, eliminata, anche appunto lì dove c'è una massa di lavoratori che si incontra tutti i giorni, e quindi, diciamo, non esiste quella fortissima frantumazione e frammentazione, no, generalizzata. Gli strumenti poi in realtà si conquistano anche lì, cioè, nel senso, non possiamo pensare che introdurre la democrazia economica, che significa avere, diciamo, controllo della produzione, diritto di veto sul tipo, la quantità, se vogliamo, di investimenti tecnologici in mano agli operai sia una concessione che viene fatta appunto dall'alto dell'attuale proprietà, perché ovviamente non gli conviene. Di conseguenza questo è uno dei grandi temi che va, diciamo, posto sul tavolo all'interno dell'organizzazione, se vogliamo, di una rivendicazione che non sia emergenziale corporativa del mondo del lavoro.